Allora, nel tuo libro tu dici che il rapporto tra il fascismo e le montagne è un rapporto estremamente contraddittorio, e quello che è evidente da questo, quello che mi viene, insomma, che è evidente da questo video è da una parte quindi un'esaltazione della montagna, della natura, però dall'altra anche un desiderio di dominarla, di razionalizzarla, della forza del fascismo che sta nell'arrivare alla vetta, no? E passo subito la parola a te. Sì, c'è un capitolo, il capitolo sul fascismo, Montagne Nere, è così perché effettivamente mi sembra che il rapporto sia piuttosto contraddittorio, diciamo. Da una parte tu hai questa retorica, poi tra l'altro queste sono cose che io ho studiato anche un po' incuriosito da delle cose che aveva scritto anche Patrizia su, per esempio, le colonie estive di storia sociale del fascismo, un certo uso della natura appunto sempre in questa chiave, diciamo, nazionalistica e, diciamo, di educazione generale, diciamo, dell'italiano e dell'italiana. Perché contraddittorio? Perché da una parte tu, qui si potrebbe dire semplicemente che c'è una love story, cioè i fascisti sono, tra l'altro c'è un grande amore, Mussolini si fa ritrarre continuamente in montagna, sul Terminillo, la montagna del Duce, torso nudo e via di seguito, e poi c'è il fratello di Mussolini, di Benito, Armando, che è una specie di Arnaldo, oggi sto incasinato, scusate, è Arnaldo, che è una specie di guru dell'ambientalismo, protettore dei boschi, ancora adesso, pochi anni fa, credo che il Consiglio Municipale di Latina voleva intitolare ad Arnaldo il parco urbano locale, è ancora è stato intitolato. Memorie in Romagna di Arnaldo, da Forlì a Santa Sofia sono rimaste, insomma. No, ma io sostanzialmente, perché è contraddittorio? Perché appunto da una parte tu c'hai tutte queste cose, ma dall'altra c'hai invece un atteggiamento molto repressivo, stavo dicendo. Sostanzialmente, per esempio, il fascismo trasforma il corpo forestale in un corpo militare che diventa la milizia forestale e diventa quindi un corpo sostanzialmente repressivo, inasprisce moltissimo tutte le misure, i regolamenti sull'uso delle foreste, dei boschi, delle risorse comuni, sostanzialmente espropria fortemente delle risorse comuni, dei beni comuni, le comunità locali, no? Pensiamo a tutto il tema appunto ancora una volta dell'idroelettrico, e poi fa questa, voi tutti conoscete la battaglia sul grano, no? È famosa del fascismo, forse vi ricordate la battaglia sull'oro, no? Magari qualcuno vi ha raccontato delle fedi che gli italiani e le italiane hanno donato al Duce, pochi invece sanno di una battaglia meno diciamo altisonante, che la battaglia del grano è ancora tanto quanto, quella dell'oro è brillante, ma in realtà una delle grandi battaglie del fascismo è la battaglia contro le capre. Vogliono levare da mezzo le capre sono il segno di una agricoltura arretrata, e quindi c'è tutta una misura repressiva con tasse molto alte, qui ne parla anche Primo Levi, questa volta lo dico bene, ma, Carlo Levi ne parla che dice che a un certo punto ammazzano tutti gli animali, i contadini, pur di non pagare le tasse. Questo tema repressivo, tra repressione e celebrazione, è molto forte nel fascismo. Io ci gioco un poco, per esempio, parlando di due personaggi, come sono per esempio Serpieri e poi Arnaldo Mussolini. E perché? Perché secondo me, per esempio, il passaggio da una visione della montagna integrale, cioè la montagna come foresta, come pascolo, come risorsa idrica, invece la montagna solo come foresta, che è tipico dell'approccio della milizia forestale, cambia moltissimo le cose e fa significare appunto un fortissimo apporto repressivo. Per darvi ancora un'altra idea di questo elemento repressivo, le leggi contro l'emigrazione, che diventano fortissime. In un romanzo famoso di Ignazio Silone Fontamara si racconta del protagonista che deve andare in città, a Roma, e per andare in città non può, ha bisogno di un lasciapassare, E così uno dell'elite, uno dei nobili del posto, non gli dice: beh, fai finta che devi andare in ospedale a trovare una moribonda, è l'unico modo per andarci, per dare l'idea del ghetto montano, come dice Ercole Sori, no? Uno storico italiano che ha studiato queste cose. Dall'altro canto però c'è la celebrazione dei montanari come la risorsa genetica, il vero italiano. C'è anche un discorso razzista, non so se dopo ci torniamo. E poi c'è l'idea che appunto in montagna tu cominci a fare palestra di guerra. L'avete visto, no? Prima, quando loro dicono assalta alla montagna è ridicolo, perché loro corrono proprio. E poi ci sono altri video in cui per esempio la milizia forestale dà una dimostrazione al duce e lì vedi che sparano con il mitragliatore in aria. Ora il legame tra, diciamo, la protezione delle foreste, la sventagliata di mitra nell'aria è tutto da ragionare. Io comunque ho lavorato su queste cose e racconto per esempio quanti militi forestali sono ammazzati nelle foreste proprio in questo scontro continuo con gli utilisti, come li volete chiamare, con la gente che ci abitava lì, che li usava, che ci andava a caccia e via di seguito. Basta, non vorrei parlare troppo. Posso dire qualcosa? Adesso per forzare l'analisi, secondo me la montagna non è fascista. Adesso forzo l'analisi. Non è fascista, tanto che cos'è ancora una volta cos'è la montagna rispetto alla campagna, perché i contadini sono montani, non sono montani. Ecco. Tra l'altro i personaggi che sono ricordati, al di là di Arnaldo Mussolini, sapete che è il grande tecnico del fascismo, prima si occupa della montagna, ma poi si occupa delle bonifiche. Il grande suo impegno è quello di andare a valle e bonificare. E lì lo scontro in realtà con i latifondisti porta ad altre vicende. Perché dico forzo la situazione? Mi veniva in mente guardando questo filmato. Ma intanto perché il fascismo, lo squadrismo non nasce in montagna. Il fascismo nasce in valle, nasce nelle zone contadine. C'è un fascismo montano, ma c'è più che altro una conquista degli ex combattenti al momento della monumentalizzazione delle montagne e della fascistizzazione della memoria della Grande Guerra, che tu dici, racconti molto bene. Altra cosa si vede questo documento, certo c'è l'organizzazione del consenso e quindi la totale capillare organizzazione di tutto e di tutti in Italia alla metà degli anni 20. Ma uno dei pochi luoghi in cui un associazionismo rimane rispetto all'Opera Nazionale Dopolavoro, alla Opera Nazionale Balilla, alla GIL, è il CAI e queste associazioni di alpinisti, che certo erano nate come tra il popolare e il ceto medio. Però non dico che facciano concorrenza, però esistono rispetto al fatto che il fascismo spazza via qualsiasi altra organizzazione e quindi sono in qualche maniera una visione alternativa, relativamente alternativa della montagna. E poi lì si vede quello che si arrampica. Ma il fascismo ha sempre sollecitato e incrementato gli sport collettivi, gli sport di squadra. Perché lo sport di squadra, che insomma c'è l'ordine, c'è l'organizzazione, il calcio, tanto per dire lo sport per autonomasi in cui no, c'è oggi diremo l'allenatore che è il capo, il duce locale e gli undici che gli... Andare in montagna vuol dire essere anche un individuo alla prova con la montagna, con la natura, e quindi rompe questo schema, no, della sudditanza e dell'ordine, ma dell'individuo che sì, certo, il nuovo italiano, però anche un anarchico italiano che si confronta con la montagna, con le proprie forze. Quindi ci sono tanti elementi che, se guardiamo il consenso tra gli sportivi, coloro che il fascismo ha tra i ciclisti, tra altri sport, ma la montagna fa molta fatica. E poi, lo dici anche tu, e poi forse Sante potrebbe dire qualcosa di più anche su questo, se noi pensiamo appunto alla resistenza, ma anche quelli che sono stati educati come... No, nell'immagine che abbiamo visto i giovani, penso a Mario Rigoni Stern e altri, diventano sono alpini, vanno eventualmente Nuto Revelli, vanno in Russia e tornano antifascisti. E forse un ragionamento anche su questo occorrerebbe farlo. No, collegandomi a questo e a quello che ho letto nel capitolo sul fascismo e quello sulla resistenza del libro di Marco, tra l'altro il libro mi è stato spedito con molto tempismo perché venivo da una lunga sequela di letture proprio sul rapporto tra alpinismo, fascismo, il redentrismo triestino, la guerra bianca, tutte queste cose. Introduco delle sfumature, dei distinguo, nel senso che per tutti gli anni venti rimangono nel paese alcune associazioni alpinistiche non fascistizzate. C'è un libro che si chiama Compagni di cordata che ricostruisce questo mondo dell'associazionismo alpinistico legato al mondo operaio, socialista, eccetera, che per quasi tutti gli anni venti ancora resiste, ci sono sacche di resistenza di un alpinismo non irregimentato, appunto. A partire dal 29-30 c'è la fascistizzazione vera e propria della pratica alpinistica, perché nel 29 il CAI viene assorbito nel CONI, che ha le dirette dipendenze del ministero, cioè a un certo punto Starace sarà proprio il capo di tutto questo accrocchio, e il segretario nazionale del CAI diventa Angelo Manaresi, tra l'altro podestà di Bologna, che era già da 3 anni presidente anche dell'Associazione Nazionale Alpini. Il fatto che l'Associazione Nazionale Alpini e il Club Alpinistico Italiano abbiano lo stesso capo, lo stesso RAS, è già questo un segno che si sta militarizzando l'idea dell'alpinista, cioè l'alpinista è l'alpino a un certo punto. Negli anni 30 c'è questa fortissima corrispondenza, nel CAI viene azzerata ogni democrazia interna, le decisioni vengono prese da Manaresi e basta, e non si possono discutere, e gli alpinisti cominciano a intitolare le vie a Starace piuttosto che a Italo Balbo. Riccardo Cassin sulla piccolissima di Lavaredo intitola una via a Starace, e Emilio Comici ne intitola una a Italo Balbo sul Salame, sempre nelle Dolomiti, eccetera. Ma soprattutto il fascismo cosa fa? Trasforma l'alpinismo in una pratica di massa, l'alpinismo e lo sci, perché fa costruire un sacco di rifugi nuovi, fa costruire delle seggiovie e comincia una propaganda martellante sul fatto che il vero maschio va a conquistare le vette, bisogna andare in montagna, eccetera. La montagna non è fascista, a un certo punto c'è un tentativo fortissimo di fascistizzare l'alpinismo, che però, questo è interessante, produce un'eterogenesi dei fini, nel senso che a forza di dire, soprattutto a quella che è la base sociale del regime, cioè la piccola borghesia urbana, andate a respirare l'aria buona di montagna, andate a sciare, andate a scalare, abbiamo fatto i nuovi rifugi, la nuova funivia, le nuove cose, andate, c'è proprio tutta una produzione anche di stampa apologetica di queste pratiche che sono maschie, che sono virili, che sono fascistissime, eccetera. E tra l'altro il culmine di questa produzione propagandistica sull'alpinismo è negli anni 35-36, che sono gli stessi della guerra d'Etiopia, e c'è una corrispondenza strettissima tra la conquista della montagna e la conquista della colonia. Ma al di là di quello, l'eterogenesi dei fini è che a un certo punto un'intera generazione gli dicono vai in montagna, vai in montagna, vai in montagna, e dopo in montagna ci va, ma come partigiani molti, c'è un racconto, appunto Primo Levi, tiriamolo fuori, finalmente, il racconto Ferro nel sistema periodico di Primo Levi, dove lui racconta le sue escursioni alpinistiche negli anni 30, quando era universitario, assieme al suo amico Sandro, e dice noi in quei fine settimana mangiammo molta carne dell'orso, cioè per dire facemmo molta fatica, e quella carne dell'orso è quella che poi ci ha fatto affrontare le difficoltà venute dopo. E tu scopri che quel Sandro è Sandro Dalmastro, leader dei partigiani di Giustizia e Libertà, e lui stesso, Primo Levi, è catturato mentre fa il partigiano e dopo va ad Auschwitz, ma comunque lui era nella resistenza, e lui stesso dice questa cosa di andare in montagna, che negli anni 30 c'è stato il boom alpinistico, in qualche modo ci ha preparato, c'è l'eterogenesi dei fini, tanto che poi nei decenni successivi quando si dice ci toccherà andare in montagna, significa ci toccherà andare a fare di nuovo i partigiani. E questo è interessante, come viene rovesciato di segno l'andare in montagna, tutti gli sforzi del regime per spingerti in montagna effettivamente funzionano. E cosa succede, tra l'altro? Che alcuni dei più importanti alpinisti degli anni 30, come Tissi, come lo stesso Cassin, diventano capi partigiani. Cassin è quello che si fa consegnare le armi dall'ultimo presidio tedesco che si arrende a Lecco, ed era il più grande alpinista italiano, è uno che a 80 anni continuava a scalare, a 75 anni ha scalato la più alta montagna del Nord America, che è il Monte McKinley in Alaska, capito? E questo qua era, dopo è stato capo partigiano. È interessante quello che avviene su quel crinale lì. Quando a un certo punto la montagna cambia di segno, gli sforzi del regime, una specie di jiu-jitsu storico, la forza stessa, l'impeto che il regime ha messo nello spingerti ad andare in montagna, cioè, si abbatte contro il regime stesso. L'altra cosa che volevo dire, appunto, andrebbe esplorata, mi sto interessando molto di questo, il rapporto tra Africa e montagna. Io poi anche tra Africa, montagna e questione triestina, secondo me sono molto correlate. Se uno guarda Trieste come osservatorio, vedrà come il rapporto tra alpinismo e fascismo, ma ancora prima tra alpinismo e irredentismo ipernazionalista, gente come Ruggero Timeus, eccetera, erano tutti alpinisti. Il covo, diciamo così, dell'irredentismo più estremo, che diede anche un sacco di spie da usare contro l'Austria, eccetera, è la società alpina delle Giulie, che poi verrà a far parte del CAI, ma all'epoca chiaramente no, perché si trova in territorio austro-ungarico. Ecco, è interessante come, dicevo prima, l'apice del rapporto tra alpinismo, nell'immaginario, tra alpinismo e regime, è anche quello del momento in cui, come diceva il Duce, gli italiani devono elevarsi sul piano dell'impero. Il CAI fa un sacco di missioni in Etiopia. Ci sono delegazioni, soprattutto della società alpina delle Giulie, quindi sempre Trieste, che vanno in Etiopia, poi scrivono dei rapporti su, ci sono delle montagne interessantissime lì, noi dobbiamo far vedere che come veri fascisti la forza che abbiamo messo nel conquistare le vette qua in Italia la dobbiamo far vedere anche là, perché il nostro prestigio di razza, dobbiamo far vedere che noi bianchi siamo, eccetera. E tra l'altro l'episodio più eroico, diciamo così, nella narrazione bellica, nazionalista e nostalgica delle colonie, poi l'episodio più eroico di tutta la nostra storia imperiale e la resistenza del Duca d'Aosta sull'Amba Alagi, che appunto è una montagna, e nel diario del Duca d'Aosta lui dice: mi sembra di essere di nuovo sul Carso, e lì il cerchio si chiude, appunto Trieste, la guerra bianca, il Carso, eccetera, e tu in Africa fai la resistenza contro gli inglesi sulla montagna e ti sembra di essere di nuovo sul Carso. Io credo che tutto questo cortocircuito storico, immaginario, culturale, semantico, che ha a che fare con la montagna, con il fascismo, con il farsi nazione, con le colonie, debba essere ancora esplorato. Cioè, ci sono dei libri, capito? Ma debba ancora essere esplorato a fondo, perché è un cortocircuito che secondo me ci definisce. Cioè, ancora oggi noi giriamo intorno a dei nodi risolti di quella stagione lì. Ecco. Ho parlato molto, forse troppo. Io soltanto due cose, velocissima integrazione. È molto suggestiva l'interpretazione basata sull'eterogenesi dei fini. È molto suggestiva e in qualche modo finisce anche per forzare alcuni pezzi di realtà, come succede quando si fanno delle suggestioni estremamente utili. Per esempio, è chiaro che direi l'intero Stato Maggiore di Giustizia e Libertà è costituito dai figli della borghesia piemontese, che hanno la casa delle vacanze sopra Cuneo, nelle vallate, e che tornano, la resistenza armata comincia dalla casa di vacanze. Ecco, voglio dire che non è che le famiglie dei Foa, le famiglie degli Olivetti, le famiglie degli Agosti, le famiglie dei Galimberti cominciano a portare i figli in montagna o non ce li portano più o ce li portano in modo diverso perché c'è il fascismo. Certamente il modo, come evocavi benissimo il Primo Levi, per esempio, che va a mangiare la carne, assaggiare la carne dell'orso assieme all'amico Dalmastro, ma poi ci andrà anche con Massimo Mila, son tutti partigiani, no, futuri, ma vanno in montagna per fare il contrario di ciò che il regime sta facendo. Non è che se no non ci sarebbero andati, però si fanno belli, diciamo, costruiscono la loro identità contro, andando vestiti poveramente, per esempio. Invece di andare a dormire in rifugio, si portano un pezzo di pane secco e se non ce la fanno tornare a casa dormono in parete, vanno su in bicicletta e non prendono la seggiovia e non prendono il tram. Cioè si sperimentano fino allo stremo. Non è che ci sia una preparazione istintiva al fatto che un giorno saranno partigiani. Nessuno nell'Italia del 40 sta pensando che farà il partigiano. Nonostante questo, certamente c'è un rapporto strettissimo fra quella pratica, che può essere interpretata in maniera eroicistica, in maniera virilistica o comunque come allenamento fisico, come pulizia interiore, la lettura ovviamente dell'andare in montagna si presta. Certamente lo stato maggiore della resistenza fa anche l'alpinista in questo modo, che è un modo alternativo a quello, alla retorica del regime, insomma. Su questo... Forse l'eterogeneità, perché io l'ho messa molto sul piano dell'immaginario, ma poi, come giustamente dice Marco, suggerisce, bisogna tenere assieme il piano della narrazione dell'immaginario con quello proprio materiale. Allora forse l'eterogenesi dei fini la capiamo meglio, l'uso delle strutture, cioè il regime fa costruire un sacco di rifugi, un sacco di strade nuove, migliora, restaura mulattiere, fa le funivie, tutte queste cose, e molti rifugi del CAI in Lombardia, in Friuli, eccetera, poi diventano covi partigiani. Quindi sul piano materiale l'eterogenesi dei fini da parte del regime è molto concreta. Sul piano dell'immaginario è chiaro, bisogna fare qualche forzatura e poi anche vedere che le situazioni in diverse zone del paese erano diverse. Ecco.